di amare, libero da ogni povertà, libero dalla struttura del potere, dalla struttura del denaro, dalla struttura del piacere. Libero nel Signore, libero di poter servire, libero di gioire, libero nella fiducia del Signore, nella sua forza della croce, nella sua luce di risurrezione. Dalla struttura del potere, dalla struttura del denaro, dalla struttura del piacere. Della croce, nella sua luce di risurrezione.